Addio modifica della legge elettorale, addio grandi intese. La rinuncia di Franco Marini all'incarico di presidente del Consiglio con probabili elezioni ad aprile ferma le riforme. La bozza a bianco è ormai carta straccia. La promessa di Gianni Letta a Marini per un dialogo sembra sempre più lontana. Il no di Forza Italia ad un accordo con il Partito Democratico è perentorio. Silvio Berlusconi lo dice chiaro e tondo. È una ipotesi non concreta, non realistica, è un'utopia, no? Sullo stesso tono il segretario del Partito Democratico, Walter Veltroni. Ho visto che il presidente Berlusconi ha definito giustamente questa ipotesi realistica. Vorrei semplicemente dire questo: è difficile poter sostenere qualcosa del tipo di quello che è scritto sul giornale se oggi ci si nega anche alla prospettiva di una collaborazione per 3 mesi per fare insieme delle regole del gioco comuni. Critico su Berlusconi anche Romano Prodi che ammonisce: smettiamo di fare giochetti. Oggi intanto il Consiglio dei Ministri deciderà la data del referendum sulla legge elettorale. Elisabetta Fiorito, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.